cane. È meglio mai. Poi santone. Buonasera. Eccoci qua. Meno male che ogni volta ogni tanto entri. Almeno ci fai compagnia, cioè ci fai. Siamo solo in due, allora. O magari se c'è qualcun altro che l'ascolto, magari entra. Là. E non è che ne abbia tanta voglia, di parlare, capito? Io ho poca voglia di parlare, magari mi piace accenderlo, ascoltare, ma parlare ma poco, non so perché, mi sta entrando la mandrolia. Mandrolia, c'è una mandrolia perché non c'è nessuno, se ci fosse stato un bel po' di gente come prima, sarei sentato ogni giorno, il discorso è quello. Anche quello, io molti giorni acceso, certe volte sta anche mezza giornata acceso, non c'è un'anima, però cosa vuoi fare? Adesso magari se ne viene anche il tempo caldo, per cui l'apparecchio lascia la parte, se ne vanno al mare, bagnarsi le chiappe, fanno bene. Vabbè. Anche tu devi andare a bagnare le chiappe, penso, no? D'estate. Tanto la macchina ce l'hai, quindi puoi anche uscire tranquillo. Ti metti d'accordo con i tuoi figli, andate via a tanta ora, fate un pranzo, quello che è. E a me la passi l'ora. Ehi, qualche diretto già lo faccio, va. Cosa vuoi fare? Boh. Noia, più che noia che altro, capito? E purtroppo non è più come prima, no? E ci sono altre cose da pensare, per cui magari non mi viene voglia, ecco, tutto lì, Antonè. Anche di uscire, non è che prima uscivo molto spesso, anche adesso c'è la mandrolia, anche in campagna, per dire. E so c'è da poco e niente, capito? No? Perché non ne ho voglia, ecco, tutto lì. Ma in campagna ti fa bene, svagatemi, non è che ti faccia male. Fai lì, innaffi le piante, fai quello che devi fare, ti fai un po' di frutta, eccetera, eccetera. E te la porti a casa. Capito? Almeno passi un po' l'ora, nel tuo caso cosa fai? Ti guardi la televisione, che a noi che è il doppio, perché ci sono sempre gli stessi programmi, più che di politica non parlano, di questa merda di guerra, eccetera, eccetera, e poi c'è quello così, c'è quello colà, ci sono questi migranti, eccetera, più che di quello non stanno parlando. Cioè, prima era pieno di film, adesso i film non me ne so più. Ora vai, in prima serata ci abbiamo sempre la stessa cosa, ogni giorno sempre la stessa minestra, parlano sempre le stesse cose, di quelli femminicidi, eccetera, eccetera. Ah, va a far culo. Ma meno male l'hanno fatto fuori a coso. Al generale, perché andava in televisione, capito? L'hanno subito fatto fuori adesso, meno male, cazzo. Era la tua rimballa, cazzo, il generale Garofalo, cazzo, che lui era quello, lui era quell'altro, beh, adesso non può fare più niente, perché ciò che lui raccoglie, eccetera, eccetera, e che racconta in televisione, non deve venire nulla, deve stare zitto e basta. Gli hanno messo gli hanno cucito la bocca, in pratica, a me. Ciò che lui dice in tribunale non è valido, perché lo dice 3-4 giorni prima in televisione. Oh boh, purtroppo tanto è che si vuoi fare. Oh yeah, per carità. Oh yeah. Allora, una cosa ti volevo chiedere, se riesci a saperlo. Io sto usando il 6009, no? Quell'apparecchio, però è l'altro, non quello che hai messo a posto tu, ne ho un altro nuovo, ed è arrivato, dunque, sotto le lancette quando parlo, ci sono i numeri da 1 a 30, però guarda basso, la portata spariscono. Ne sai qualcosa perché? Non lo so. Letto il foglio delle istruzioni, perché già lo sai che quello fa un sacco di funzioni con l'apparecchio lì. Hai capito? Gli intervistato che è schiacciato qualche funzione, non te ne sei accorto, è come il telefono cellulare. Hai capito che secondo quello che schiacci ti appare quello lì o ti scompare tutto, eccetera, eccetera, quindi devi fare tutto da capo e della programmazione e roba così. A me l'altra volta mi è passato questo affare di WhatsApp. Ho schiacciato e mi hanno inviato un virus, mi hanno inviato. E poi non sono solamente io, perché stavo leggendo oggi che in pratica stanno mandando il virus a tutti su WhatsApp. Cioè in pratica tu accendi il telefonino e ti arrivano le telefonate, è lei che mi ha chiamato, ma te ne arrivano, a me mi sono arrivata una raffica di un centinaio in tempo di 2 ore, hai capito? E non riuscivo a capire perché, e il motivo è cos'era, WhatsApp era, capito? Quindi vuole eliminato, WhatsApp ormai vuole eliminato, perché ti mandano il virus per vedere se c'hai i conti bancari, roba del genere, hai capito? E te lo portano via tutti i denari che ti vai, se ci hai messo la carta di credito, il codice fiscale, eccetera, eccetera, quindi è un casino adesso. Meno male io non ci ho mai messo niente. Un telefono così normale, se voglio il nome e cognome mio lo sanno. E poi se andaggio dove abito, tanto di là non ne ho né alle poste e tantomeno ne ho né in cose, quindi si attacca la pupa. No, boh, è un casino, eh. È un casino, Antonè. Un attimo, c'è, chiamo solo a Antonè. Meglia, va bene. Antonè. Meglia. Vai. C'è mia figlia, vai. E chiudo, eventualmente ci sentiamo più tardi, Antonè. Grazie per la chiacchierata. Meglia, non c'è problema, mia, adesso io mi faccio un giro dai bebì. Per fare un po' di spesa, me ne vado un paio di buste, salgo e scendo a piedi, così mi faccio una bella passeggiata. E poi rientro a casa. Ci sentiamo al limite dopo, un attimo. Dato che ci pegherò 3/4 d'ora, cosa del genere. Vabbè, d'accordo, Antonio, dai, ci sentiamo. Ciao. Ciao.